Due. Ascolta e ripeti. Chi è? Marina. È aperto. Ciao, non mi ricordavo di tutte queste scale. Hai ragione, anche io non mi ci abituerò mai. Sarei venuta volentieri a pranzo da te. Ma questa settimana il mio turno finisce sempre a quest'ora. Troveremo un'altra occasione. Certamente. Vuoi accomodarti? Grazie. Ah, che comodo questo divano. Che bellezza. Resterei qui tutto il pomeriggio. Sarei proprio contenta. Dove ho messo i cioccolatini? Ah, eccoli. Ne vuoi? Magari. Li lascio qui. Ho qui gli articoli. Saranno un centinaio di pagine in tutto. Li avrei fotocopiati per te, ma non ho avuto un minuto libero. Quindi, quando non ti servono più, dovresti restituirmeli. Non ti preoccupare, li fotocopio domani e ti restituisco tutto. Bene, grazie. Allora, da dove comincio? Non saprei, forse da questo. Di chi è? È di quel professore di Stoccolma, ricordi? 2 anni fa avresti voluto seguire un suo seminario. Ma non era più possibile fare l'iscrizione. Ah, già! Sì, allora comincerò da questo articolo qui. Mi ci vorrà poco tempo per leggerlo. È corto. Sì, direi che il più interessante è... E sicuramente è quello più recente. Grazie. Quando pensi di consegnare la tesi? La tesi sarebbe finita, ma ogni volta che la rileggo... Mi vengono in mente delle modifiche, degli approfondimenti. Se continuo così, non finirò mai. Capisco. Questo è un buon segno. Direi che hai un futuro da ricercatrice. Magari! Intanto cercherei solo di prendere la specializzazione. Poi si vedrà.